Anch'io inizierò, forse non ci siamo benissimo, quindi ci copre. No, ma è un'impressione forte che si riceve durante la lettura. Inizierò proprio con questo rilievo sul carattere complesso del libro. Io direi proprio francamente un libro difficile. Un libro difficile e anche stilisticamente è un libro che è pieno di frasi parentetiche, è pieno di frasi appositive, è pieno di frasi avversative, e in questo dimostra subito una cosa molto importante, di cui poi forse vorrei dire qualcosa in conclusione, che è una forte attenzione alla comunicazione, al linguaggio, a svelare i meccanismi, le trappole che il linguaggio, anche quello delle fonti, naturalmente comporta, la traduzione magari di quel linguaggio. È un libro che pone, che tende continuamente delle imboscate alle convinzioni che il lettore si è fatto nelle pagine precedenti. Cioè, è un libro difficile, devo dire la verità. Però, proprio ciò che ho detto, credo che significhi anche molto precisamente che è un libro molto stimolante, molto affascinante. È un libro al quale, soprattutto chi poi, come me, non è uno specialista di questo periodo, apprende moltissimo, ma vedo che comunque risultati importanti e nuovi ci sono in abbondanza. Ma anche è un libro molto interessante perché, soprattutto, mi verrebbe da dire, perché pone continuamente dei problemi che vanno dal livello, mi sembra che presentandolo forse si possa dire un po' anche di questo, che vanno dal livello metodologico, nel senso che c'è attenzione, per esempio, al problema del rapporto tra elemento narrativo, elemento biografico e storiografia, ai problemi teorici grossi come quello della rappresentanza. La rappresentanza non la rappresentanza dal basso, ma anche, e in realtà le domande vengono aperte proprio su questa seconda, la rappresentanza verso il basso, cioè la rappresentanza dall'alto. E va bene. Ripeto, continuamente si aprono delle scene problematiche che sono estremamente stimolanti. Allora, detto questo, è altrettanto comprensibile la difficoltà di ridurre una unità problematica di tutto questo assieme di questioni che vengono sollevate. Se bisogna farlo con un grosso sacrificio della complessità del libro, sicuramente bisogna andare nella direzione a cui accennava prima Merigi, cioè di questa dialettica tra Stato e società. Qui potremmo virgolettare 15 volte ciascuno dei termini del binomio e il binomio stesso. E bisogna in effetti specificare di più. È chiaro comunque che questa dialettica c'è, è chiaro che qualunque sia la nuova direzione, la nuova traiettoria che lo Stato va svolgendo in questo periodo, si sostiene reciprocamente con delle dinamiche sociali, le quali si rappresentano anche in qualche modo in questa vicenda dello Stato, ma a me pare che lo specifico, l'accento poi sia posto proprio su questa, diciamo così, per il momento, modernizzazione dello Stato, su questa modernizzazione dello Stato che va sempre di più nella direzione di un processo di astrazione che supera le incarnazioni precedenti dello Stato e va verso un processo di astrazione, di sublimazione, le persone quasi scompaiono negli uffici, di razionalità, di razionalizzazione e così via. C'è un distacco, dello Stato dalla società civile, anche se questo distacco viene continuamente nel libro problematizzato. E il cuore, l'elemento centrale di questo segmento di vicenda della statualità è l'amministrazione. L'amministrazione che appunto va sempre di più, o tende sempre di più, verso un modello di legalità, verso la supremazia dell'ufficio, verso un modello di legalità, verso un modello della razionalità, dell'uniformità, della straniazione sociale dei componenti di questo apparato. Ecco, soprattutto nella mia rappresentazione in questo momento, la cosa appare molto vicina a una problematica di una sistemazione weberiana del processo di modernizzazione. Al contrario, e questo voglio dirlo chiaramente, nel libro questa sistemazione, questo modello viene continuamente problematizzato. Se mostrano le incongruenze, comunque diciamo i limiti, le inadempienze. E mi pare che sotto questo aspetto una cosa molto importante sia un aspetto molto importante sia il rapporto tra politica e amministrazione. Qui l'autrice ha a disposizione un episodio decisivo per una verifica di questo aspetto, cioè a disposizione di Quartone. Che cosa succede? E beh, succede che sostanzialmente con il 48 la politica irrompe in questa sfera dell'amministrazione, sovverte, forse la perverte, insomma scombussola il quadro di un'amministrazione neutrale, di un'amministrazione impolitica, di un'amministrazione distaccata dalla politica. A livello più basso, a livello dei commissari di distretto, c'è il problema che un certo numero di questi, un numero significativo di questi, viene coinvolto dal movimento rivoluzionario e forse coinvolto in poco, prende delle iniziative, si compromette attivamente. Qui c'è una parte molto bella in cui si dice che poi non si riesce, c'è l'imprescrutabilità della realtà dal punto di vista storiografico, perché non si riesce a capire poi nei documenti che parlano di queste compromissioni, se queste compromissioni ci sono state veramente oppure no. E si lascia intendere, se non vado errato, che in fondo non era neanche necessario dal punto di vista di coloro i quali indagavano su queste compromissioni giungere ad accertare la verità. Comunque la politica irrompe, il momento dell'arbitrio, della scelta arbitraria irrompe e scombussola il quadro amministrativo. Ma la politica irrompe e diventa protagonista anche ai livelli più alti. Ai livelli più alti, ai vertici, c'è la vicenda qui di questi progetti, di questi programmi politici, fatta in particolare, mi ricordo quelli di Montecuccoli e di Hattic. I quali sostanzialmente producono un programma chiaro contenuto politico su come deve essere organizzata la rappresentanza del Regno Lombardo-Veneto. E in queste modalità della rappresentanza ci sono appunto sono appunto contenuti degli elementi molto chiari di programma politico. Del resto questi sono politice beante, e quindi anche se politice beante dovrebbe essere in sintonia con il vertice, qui invece questi sono politici perché assumono la politica attivamente, cioè si fanno promotori di soluzioni politiche. Elaborano dei progetti con cui, si schierano, vincono o perdono, questi qui poi in particolare perdono, ma parti solo temporaneamente, insomma, diventano dei protagonisti politici. E allora questo non si coniuga facilmente con un modello di amministrazione neutrale, con il modello per cui l'amministrazione e i funzionari sono dei traduttori inerti di una volontà politica che si produce in cui, nel luogo in cui l'arbitrio è permesso, l'arbitrio della politica è permesso. Qui l'arbitrio della politica percorre questo corpo. E qual è il modo in cui a mio avviso persuasivamente viene fatto quadrare questo cerchio nell'analisi proposta nel libro? E il modo è quello di sottolineare che la caratteristica del beante, la sua adesione a questo nuovo paradigma amministrativo che si è disincarnato rispetto agli elementi cecquali precedenti, sta precisamente nella sua adesione alla statualità. Il suo orizzonte è descritto, del beante, è descritto dalla statualità. E in questo rapporto non è affatto un rapporto neutrale, è un rapporto pieno di valori, un rapporto palpitante di valori. E non solo, ma l'altro elemento caratteristico che chiarisce per il primo è la disponibilità del beante a distanziarsi, seppur all'interno di quel rapporto dialettico di cui si diceva prima, a distanziarsi dalla società civile, ad accettare questa enfrentum e a ad aderire convintamente a questo processo di modernizzazione statalistica, diciamo così. E questo per esempio che spiega come mai a un certo punto non molti commissari di distretto furono, anzi pochissimi commissari di distretto mi pare, furono sostituiti dopo il 48. Si diceva in fondo che questi poveretti sono i membri della commissione dell'organizzazione, come altro si chiamasse, se non ricordo, si trattava di gli strumenti privi di volontà, e in questo modo si confermava la rappresentazione della neutralità politica di questi, ma in realtà li si teneva perché questi soggetti erano portatori precisamente di questa, c'era una complicità con loro perché questi soggetti erano portatori di questa nuova consapevolezza della Herrschaft statale di cui l'amministrazione trasmetteva i valori. Ecco, io ho usato il termine modernizzazione, non so se viene usato, ma ecco, a me anche lì, a me è breve poi di ricordare che naturalmente questo paradigma non è un paradigma in senso assoluto. Il distacco da una amministrazione basata su notabili, diciamo così, viene perseguito in modo diverso altrove, o il paradigma amministrativo si afferma altrove senza il distacco. Se posso fare un'apertura così, per gli anni in cui stiamo parlando, negli Stati Uniti d'America, Jackson stava portando all'abbandono, alla separazione dell'amministrazione dai gentlemen, dalla gentrified, dalla landed gentry nell'amministrazione americana, e perseguiva una forma di, e realizzava una forma di modernizzazione che naturalmente è molto diversa da questa. Oppure delle forme di modernizzazione basata su un'amministrazione professionale fortemente incardinata nella logica della legalità, della razionalità, eccetera, veniva realizzata in Russia attraverso un personale che era fortemente radicato alla propria identità nobiliare. Nei Landräte prussiani, che erano probabilmente assimilabili ai commissari di distretto, avevano radici nobili. E lì c'era addirittura una vera e propria carriera che non c'è tra i commissari di distretto, se ho capito bene, e i delegati. C'era invece una carriera tra i Landräte e i Regierungsbezirk e gli Oberpresidenten. Quindi c'era già una maggiore formalizzazione, e non di meno questa componente aristocratica esisteva e pesava. Allora, sì, insomma, come dico, il problema è poi questo qui è un quadro problematico molto ampio, così, al quale mi sono risolto a rivolgermi perché mi sembra che possa in qualche modo circoscrivere la enorme quantità di problemi che emergono, vengono toccati nel libro. Uno di questi, che a me è particolarmente interessato, è quello che riguarda la città. E nel libro c'è una grande attenzione al problema del territorio. E viene questa attenzione è qualificata dal mostrare come queste dinamiche amministrative, con le nominazioni che producono il delegato, la provincia, eccetera, sostanzialmente contribuiscono a fare il territorio. Gli danno un volto, non solo cartograficamente, ma anche lo organizzano alla fine socialmente. Ecco, e questo l'ho trovato molto, molto convincente e molto interessante. Invece una perplessità ho in ordine alla ritenere che le città mantengano un predominio sulla campagna. Questo è un tema minore, è uno dei temi minori del libro. A me ha colpito perché venivo dall'aver fatto delle riflessioni sull'argomento. E come viene argomentato questo punto? Beh, intanto il rapporto città-campagna è uno dei grandi problemi storiografici che si ritrovano, vengono accennati nel libro, e consolidare quest'idea comunque di un rapporto, se il dominio della città sulla campagna o, secondo alcuni, addirittura viceversa, è un problema che lasciamo stare. E comunque un grosso, diciamo, c'è accordo su questa affermazione di fondo. Va bene. A me pare che però questo sia vero fino a che le forme del dominio sono fortemente collegate alle gerarchie sociali e non si sono invece specializzate, relativamente separate da quelle. Per esempio, io non trovo convincente che la sede del delegato, essendo la città, ciò attribuisce alla città una dominanza sul contatto, sulla campagna. E anzi, mi stupisco che venga argomentato questo, perché mi sembra che poi l'attenzione dell'autrice sia continuamente verso le forme della ramificazione, dell'astrazione che il processo di cui abbiamo parlato prima produce. È il delegato ha sede nella città, ma a questo punto non è più la città che ratifica la propria Herrschaft sulla campagna, è invece lo Stato che sceglie la città e potrebbe sceglierne un'altra, e la solleva da un territorio che è diventato piatto. Questa immagine del territorio piatto, secondo me, è quella che si addice allo stato amministrativo che si sta, producendo. Non so se mi spiego. Il dominio della città sulla campagna, secondo me, è vero finché è un dominio sociale che trova la propria ratifica nei rapporti sociali, qualunque si siano, che legano la città alla campagna. Quando l'Herrschaft, diciamo così in termini molto forti, viene confiscata dallo Stato amministrativo, questo rapporto città-campagna viene cancellato, si risolve o deve essere risolto dentro una provincia la cui capitale potrebbe essere anche, la cui Hauptstadt potrebbe essere anche qualunque altro paesino. C'è questo bellissimo racconto di Sciascia su Ragusa che mostra come venga tirata fuori una provincia, come venga scelta una prefettura e quindi in questo modo sollevata a un rango diverso. Chiudo tornando alla questione del linguaggio. La questione del linguaggio e della comunicazione è molto presente in questo libro, nelle forme che dicevo prima, il linguaggio delle fonti, eccetera. A me è venuto in mente come questa cosa sia importante per la storia amministrativa. La storia amministrativa è una storia di nomine, è anche una storia di denominazioni degli uffici. E su questo l'autrice è sempre molto puntuale, e ritorno degli austriaci, il delegato sostituisce il prefetto. E va bene, ma non si sceglie l'intendente, si sceglie il delegato. Perché il delegato? Perché la denominazione delegato ha una connotazione legata al periodo teresiano che attenua l'evidenza che si sta ereditando un istituto, che si sta in certa misura ereditando un istituto napoleonico. Il 48, invece dell'aggiunto della figura sottoposta al delegato, si decide di chiamare quello che era aggiunto il vice delegato. Perché? Perché l'espressione delegato, dice, non mi ricordo chi, attribuisce alla carica un glanz, uno splendore che per gli italiani è molto importante. Poi dopo arrivano i piemontesi. Arrivano i piemontesi e al posto del delegato mettono l'intendente, specificando però nel decreto, che non mi ricordo quale sia, che mantiene le competenze tutte del precedente delegato. Quindi è una pura sostituzione di nome. E dicevo, l'autrice è molto attenta a, a questi camuffamenti, e io credo che questo sia un territorio, anche per la storia amministrativa, aperto da scoprire, che il libro sollecita da scoprire, che è diverso dalla storia dei concetti. È una storia di significanti. Quindi è una storia di tutte le strategie di comunicazione, più o meno manipolatorie, che attraverso la, l'uso dei nomi, l'uso dei significanti, si possono realizzare. Ecco, mi pare che per la storia amministrativa questa dimensione possa essere molto importante. Questo libro, e so, la spinge, sollecita.